בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Bentrovati a tutti gli amici di Blu Radio Veneto in questo appuntamento molto particolare che vede un'intervista a Fausto Rossi, meglio conosciuto come Fausto forse all'inizio della sua carriera, per questo Blu Time Live. Un benvenuto da Vannuccio Zanella che vi condurrà in quest'ora insieme appunto a Fausto Rossi attraverso il suo nuovo album che si intitola Blank Times. Un artista molto speciale, un artista che ha fatto storia con il suo modo di raccontare delle emozioni. Lo abbiamo al telefono e lo salutiamo subito. Buongiorno Fausto. Buongiorno, buongiorno. E siamo qui per parlare del tuo ultimo lavoro che si chiama Blank Times, quindi questi tempi svuotati. Puoi già cominciare a parlarci del vuoto di questi tempi, come mai? Beh, come mai bisognerebbe chiederlo anche ad altri, veramente. Sono così vuoti questi tempi. Sono questi tempi di sperdimento, ma anche di grande confusione, di tante cose che vanno a riempire la testa, la mente, ma è come, insomma, quando è troppo pieno qualcosa, alla fine è come se fosse vuoto, è in qualche modo inutilizzabile. Certo, un po' come si riprendeva dal tuo precedente album che era Below the Line, quindi sotto la linea, quindi ancora questo sentirsi in qualche modo inadeguati. Sì, Below the Line era più un lavoro riferito particolarmente al rumore che ci sovrasta, ma in generale a un rumore che equivale anche a masse di informazioni che non sappiamo più come gestire, che non riusciamo a riconoscere. E tutto il resto se ne sta sotto questa massa di rumore che non riguarda solo certo, l'audio. Certo, ricorda molto come si usava una volta nei computer quando si avevano le cassette dove si mettevano tutti i dati e facevano quel rumore bianco particolarmente fastidioso quando venivano travasati. Ecco, in questo album, in questo Blank Times, ancora una volta è evidente la tua sensibilità per le cose molto essenziali. Musicalmente è un album costruito sulla chitarra, una chitarra anche molto asciutta, molto scarna, un basso sempre presente, sempre molto, molto, molto potente, qualche tocco di tastiera e una batteria tutto sommato molto semplice. Questo ancora una volta serve per sottolineare forse l'importanza di un testo che viene messo sulla canzone. No, non è esattamente per quello, è il mio modo ormai da tempo e forse anche l'ultimo disco in cui farò una musica del genere così assemblata. Sai, batteria, basso, chitarra, qualche tastiera, così bene o male sono una classica, un classico ensemble ormai da 50 anni. Poi in realtà sono le mie radici. Andando anche un attimo indietro, ripartendo dall'erba con Exit, la formazione, sì, bene o male, è sempre stata questa. Quindi l'essenzialità. Allora, io volevo andare subito ad ascoltare un brano che abbiamo scelto da Blank Times, che si intitola Stars. Blue Time. E abbiamo sentito Stars, un brano anche questo molto bello. Tu, Fausto, non hai mai in qualche modo abbandonato il piacere della melodia. Voglio dire, nei tuoi brani possono essere scarni, possono essere essenziali, possono essere anche leggermente, come posso dire, musicalmente caustici, però la melodia c'è sempre. Questo è un tuo modo essenziale di scrivere. Ti risulta sempre così facile? Lo so che la domanda è un po' strana, ma vediamo se riesci in qualche maniera a capire cosa intendo. Mi riesce sempre così facile? Sì, esatto. Guarda, ti ripeto, è la mia cultura musicale, nel senso sono le mie radici, è quello che ho sempre ascoltato. Principalmente i Beatles. Per me la melodia è importante, tant'è vero che l'uso poi di dell'inglese anche a volte è una necessità, proprio per non modificare una melodia, anche magari semplicemente di una nota, quindi certo, di una sillaba, perché è importante. Metto molta attenzione quando lavoro sulla melodia. Questo devo dire è sempre stato anche un tuo tratto caratteristico, cioè l'utilizzare appunto lingue diverse nei tuoi testi, fin dai tempi di Suicidio, dai tempi di J'accuse amore mio, fino ad arrivare appunto ad oggi Blank Times. Quindi dici che si tratta di, come posso dire, di riuscire a mettere un pensiero fatto in un certo modo in una giusta melodia. Sì, dunque, allora per quanto riguarda il passato è che sì, tante volte lavoravo su principalmente in inglese, ma anche magari su altre lingue in certi casi, per non toccare la melodia, perché quella era e quella volevo che rimanesse. Questo è anche poi il grande sforzo che ho sempre fatto scrivendo in italiano, e con l'italiano rispettare una melodia che era stata già creata. Arrivando ad oggi, anzi arrivando a Become Invisible, il disco del 2009, in cui ci sono dei propri, anzi Become Invisible è tutto in inglese, e qui ci sono in realtà 5 pezzi in italiano e 5 pezzi in inglese. Esatto. Perché alla fine ho scoperto anche il piacere di bene o male, quando scrivi una canzone sei lì su un pianoforte o su una chitarra a provare, quando qualcosa esce e dici ok, bene, questo è buono. Però se io lo faccio in inglese mi ritrovo con un testo, una musica già fatta, quando arriva il pezzo è già tutto fatto, è finito, sì, poi andrai a correggere delle cose nel testo, ma niente di che. In italiano non è possibile farlo. È molto più complicato, è vero, sì. Ma sì, non uscirà mai niente di buono, almeno per quel che mi riguarda. Certo. Poi se qualcuno lo fa o se altri lo fanno, vabbè, insomma, che lo facciano. Io non reputo l'italiano una lingua adatta per fare della musica pop, rock, blues. Non è possibile, è una forzatura. L'italiano è una lingua che va bene per la messa oppure per l'opera lirica, nel senso che in quel caso sicuramente siamo dei maestri, siamo stati anzi dei maestri in quel caso, no? In assoluto. Ma non è quando tu ti ritrovi con una parola di tre o quattro sillabe nella musica rock diventa difficile gestirla. Ma diventa difficile gestirla perché non puoi mettere più note in una parola, certo, in italiano, non è cantabile. Anche un reading, io ora appunto il centro della serata poi è un reading in italiano, certo, naturalmente, però anche lì, anche in questo caso, quando si tratterà di scrivere spoken word, allora sì, continuerò a fare un italiano, però anche lì ci sono dei limiti, in pratica non si riesce a far cantare la parola, è, certo, molto difficile, altrimenti bisogna tornare a certi esperimenti, tanto per essere chiari, Carmelo Bene, ma stiamo facendo veramente tutt'altro a, certo, quel punto. Però in questo disco c'è una cosa molto interessante secondo me, e l'ascolteremo con il prossimo brano, che è come sei riuscito a fare una bellissima, secondo me, commistione usando sia l'inglese che l'italiano, e secondo me la troviamo su I Write Aloud, questo scrivere a voce alta, che secondo me è un brano bellissimo. Sì, ma infatti, la prima parte è parlata e in quel caso uso l'italiano. Esatto, allora l'ascoltiamo subito questa I Write Aloud. Sì. Scrivo ad alta voce perché a fatica riesco a sentire me stesso. Scrivo ad alta voce perché le parole non possano nascondersi. Ad alta voce perché il suono è grande magia. Scrivo ad alta voce per abitudine ormai. Non è una cattiva abitudine. Scrivo ad alta voce quando sento i primi ricordi sempre più lontani. Ad alta voce finché mi potranno sentire. Scrivo ad alta voce perché lo zodiaco è spento. Ad alta voce perché ho paura di quello che scrivo. La paura inventa il futuro. Scrivo ad alta voce perché la paura si trasformi in una farfalla gioiosa. Perché questo mondo sia erotico. Give me those clouds. Here they come now with me. Come without any nationalism. Here they come, here they come, here they come. With flashing illuminations. Here it comes, here it comes, here it's coming with me. Now comes the wind. Here it comes with me. Blowing away. Abbiamo sentito I Write Aloud, dove effettivamente abbiamo un sentore di come sono questo spettacolo, queste nuove serate che vengono proposte. E come mai questa scelta di mescolare la lettura con la musica, Fausto? Principalmente perché mi viene naturale. Non riesco a immaginare una lettura senza una musica, soprattutto se questa lettura è qualcosa che ha dei tempi dilatati, o comunque qualcosa di lungo. Quattro parole si possono dire anche senza musica, però mi viene spontaneo, perché comunque per me continua a rimanere una canzone. Certo. D'altronde non sono neanche il primo al mondo a usare quello che si chiama appunto spoken word della musica che poi è... Sì, ha un fascino sempre particolare, voglio dire, da quando lo facevano i poeti del beat americano, Ferlinghetti o Allen Ginsberg. Sì, naturalmente. Diciamo. Ecco, vedi, noi non abbiamo questa tradizione che hanno invece popolazioni anglosassoni. Prima gli inglesi e poi anche gli americani. Per loro è una cosa assolutamente naturale la lettura dei propri testi. E forse questo appunto deriva anche dalla fluidità della parola in inglese. Infatti se ti capita di ascoltare delle letture di un qualsiasi autore, sentirai che in qualche modo cantano, parlano, ma la parola canta. Sì, hanno un ritmo anche diverso. Sì, si possono permettere anche di lavorare sui ritmi. A questo lo possiamo fare anche in italiano, naturalmente, con maggiore difficoltà, perché anche in questo caso il fatto di poter usare parole che la maggior parte delle parole usano una sola sillaba, o al massimo due, e quando arrivi tre già hai usato una parola straordinaria in inglese. Certo. Questo permette veramente di lavorare sul ritmo in maniera molto facile. Benissimo. Allora, io volevo ricordare a chi si fosse messo in ascolto in questo momento che siamo insieme a Fausto Rossi in questo appuntamento speciale di Blue Time Live. E quindi ancora per tutti voi un benvenuto da Vannuccia Zanella che vi sta parlando. Siamo insieme a Fausto Rossi, dicevo, per i primi tempi chiamato Fausto. Come mai questa decisione di tornare al tuo nome vero, Fausto? Sai, più che altro a volte a un certo punto mi sono chiesto come mai ho deciso per uno pseudonimo. Certo. ma in realtà poi non è che abbia deciso io, è che quando ho cominciato a fare dischi qualcuno ha pensato che Fausto Rossi fosse così, troppo ordinario. Beh, da un certo punto di vista effettivamente il tuo nome ha caratterizzato anche un po' poi la musica che hai fatto in qualche modo. Ma sì, c'era questo pseudonimo particolare che tra l'altro non mi è stato proposto da quello che era allora il mio produttore. Gli era venuto in mente questa cosa, me l'ha proposta insomma andava bene. Ecco. Comunque noi torniamo all'ultimo album ancora, Blank Times. Parlavamo del tuo piacere di scrivere in inglese, però io volevo adesso proporre una canzone che è tutta in italiano questa volta e che mi ricorda anche un altro brano che tu avevi fatto anni fa, che era Non mi pettino mai. In questo caso il titolo è Non ho creduto mai. Blue Time. Non vi ho creduto mai, con tutto il mio cuore. Ogni segreto è lì scritto sui muri, tutto il bene, tutto il male. Vedete anche voi. È stato il tuo amore alzato gli occhi e ho visto il futuro, gli animali, le astronavi, anche senza di voi. E abbiamo sentito questo ulteriore, bellissimo secondo me, brano da Blank Times di Fausto Rossi. È un disco che secondo me è un'evoluzione continua nel nuovo, chiamiamolo così, filone propostoci da questo bravissimo artista. Quindi Fausto, siamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, siamo in collegamento telefonico proprio con Fausto Rossi, che ci sta parlando di questo suo nuovo lavoro. Diciamo un nuovo periodo cominciato con, mi sembra, il disco del 2009. Become Invisible. Become Invisible, ecco, infatti era un bellissimo ingresso a questo nuovo periodo per Fausto Rossi, seguito da Below the Line e questo nuovo Blank Times. Anche la scelta di mettere i titoli quindi degli album in inglese rappresenta in qualche maniera un nuovo Fausto Rossi. Beh, quello del 2009 era inevitabile, visto che l'album era tutto in lingua inglese. Il secondo è un album poi in pratica, diciamo, di solo suono. Ci sono delle canzoni che fluttuano sul fondale proprio di questa massa di rumore. Sì, il terzo in effetti è stato usato ancora l'inglese per il titolo, ma non lo so, forse io credo che l'inglese, se posso permettermi un intervento di questo tipo, Fausto, l'inglese, che è una lingua molto più ideale di quella che è la lingua latina, dove la parola ha un significato proprio nel senso di logos, mentre l'inglese è più un'espressione di un'idea, la parola. Quindi anche blank ha un significato molto più ampio della traduzione che gli diamo noi in italiano. Naturalmente. Probabilmente anche questo aiuta molto quando è il momento di esprimere qualcosa. Secondo me tu sei un artista che si esprime con degli stati d'animo, non si esprime tanto con delle emozioni forti o altre cose, sono degli stati d'animo. Le tue canzoni mi ricordano sempre i lavori di Boccioni, chissà perché, in qualche modo. Di Boccioni? Sì, gli stati d'animo, hai presente la trilogia, no? Quelli che restano, quelli che vanno. Strana questa cosa, beh, ci penserò. Sì. Ecco, secondo me un po' ci siamo. Per cui anche usare l'inglese diventa estremamente interessante nel rivelare, ecco, a un pubblico degli stati d'animo. Proprio per sì. Questo, prego. No, appunto, dicevo, oltretutto l'inglese è stata un po' la mia lingua, un po' sin dall'inizio. Certo, sono nato in Italia e parlo italiano, però fin dall'inizio, insomma, in pratica da quando avevo 9 anni, da quando ho scoperto i Beatles in pratica, certo. Per me ascoltare le canzoni equivaleva comunque poi andare a cercarmi un testo e guardare sul vocabolario e tradurmele, certo. poi la vicinanza per vari motivi e in diversi periodi con personaggi americani, inglesi, l'ho sempre sentita proprio come mia e come forse l'unica espressione di vera democrazia che hanno gli Stati Uniti, certo. In fin dei conti è stato permesso a chiunque, anche per necessità, ma è stato permesso a chiunque, da sudamericani a tedeschi, cinesi, giapponesi, di farne una propria lingua, no? Certo. Che poi è l'americano. Certo, no, in effetti fin da subito, quindi fin dai tuoi primi lavori, si sentono queste citazioni dai Talking Heads a tantissimi artisti, insomma, che a quell'epoca si chiamavano, che facevano la New Wave, no? E quindi immagino che poi proveniva effettivamente dall'estero. L'Italia c'è arrivata, da noi si dice, con il treno della ghiaia, quindi con quel treno che arriva molto molto a rilento, no? Per cui diventava interessante invece che ci fosse qualche persona che cominciava già ad ascoltare Psycho Killer, per esempio. Certo. Ecco. Allora, proprio per staccare un attimino da questi mondi, e prima di salutarci con l'ultimo intervento, anche io volevo introdurre un'altra canzone, secondo me molto, molto bella, molto interessante, che si intitola Il vostro mondo, quindi proprio il vostro mondo, non quello di Fausto Rossi. Sì. Siete voi, voi, voi. nostro odore è acido. Ora gli occhi si chiudono e la notte magica. E parlavamo prima, Fausto, di Become Invisible e soprattutto di Below the Line, dove volevo fare un piccolo parallelo con un altro tuo disco del passato, che era Out Now. Un disco sicuramente molto particolare, visto che vi è un solo brano cantato su Out Now, e fu una vera e propria autoproduzione. Tra l'altro, anche a livello discografico, è effettivamente un lavoro molto quotato, perché uscì proprio in pochissime copie. Fu un lavoro molto particolare, perché all'epoca se ne parlò come un liberarsi di scorie. Venne trattato quasi in questa maniera da chi all'epoca fece delle recensioni sull'album. Questo Below the Line può essere in qualche maniera paragonato ad Out Now, oppure sono due cose completamente diverse? Ma in questo senso no, perché Out Now non è stato un disco non è stato un liberarsi di scorie, è stato soltanto, se proprio vogliamo usare la parola, liberarsi di qualcosa. Erano un po' tutti i lavori e gli studi di un certo periodo sulla musica elettronica, e in particolare sugli inizi della musica elettronica, cosiddetta musica concreta. Ed è un lavoro combinato tutto esclusivamente con il nastro magnetico, quindi taglio di nastri, montaggi. Certo. Quindi, se proprio vogliamo dire liberare CD, era semplicemente un mettere su carta, in pratica, quello che erano stati tutta una serie di esperimenti. E che certamente anche questi erano piuttosto nuovi, se vogliamo restare nell'ambito di quello che veniva considerato il pop italiano. In fin di conti, Fausto Rossi era uno che faceva delle canzoni. Esatto, sì, perché in effetti poteva essere poi accostato a certi lavori che già in America venivano fatti da anni, che erano poi gli esperimenti sul minimal. Sì, ricordavo un po' i lavori di, per esempio, un Lou Reed che dalle ballate passava a fare metal machine music. Ecco, Metal Machine Music lo accosterei più a Below the Line, dove invece su Out Now le cose sono molto più definite e le strutture sonore sono più definite. Mentre Metal Machine Music sì, può essere accostato a dove Metal Machine Music, e suppongo fosse un po' questa. Ecco, questo è il rock and roll. Certo. Che alla fine sono i rumori degli ampli, sono risonanze di una corda spiorata, i rumori di uno studio, insomma, certo. No, in pratica. Infatti ho pensato bene di farlo anche doppio. Certo. Giustamente un musicista come fondamento il suono, che dopo sia quello di uno strumento musicale o sia anche un rumore, effettivamente è un suono su cui in qualche maniera si lavora. Sì, certo, poi ti dico, io l'ho interpretato quel disco allora anche appunto come l'essenza della musica rock, perché poi sono rumori elettrici, naturalmente. Poi che poi il disco sia stato considerato dalla stampa americana il più brutto disco di rock and roll mai prodotto. È un altro discorso, certo. Sono lavori che ascolti una volta, forse due. Esatto. È naturale che sia così, come vale per Below the Line, però anche se Below the Line devo dire che tempo dopo, riascoltandolo, mi è successa una cosa un po' strana, sì. Ossia il lavoro è appunto questo feedback continuo della chitarra elettrica, super compresso, ed si muove come se fosse un mostro certo, è vero. E sotto questo ogni tanto appaiono delle canzoni che però sono completamente sovrastate dai lamenti di questo mostro, certo. E quindi si sente appena qualcosa. Dunque tempo dopo, riascoltandolo, mi sono accorto che cominciavo a seguire questi lamenti sopra, ed era tutto sommato tra virgolette piacevole ascoltare questo suono, certo. che si muoveva. Quando arrivava la canzone sotto, disturbava in pratica. Sì, ecco, è quasi un lavoro dell'inconscio, è stato quasi un lavoro dell'inconscio, no? Per cui un sogno lo si interpreta a posteriori, non subito. Ah, sì, questo sì, e comunque in generale credo che valga un po' per me, un po' su tutti i dischi, ma credo anche per chiunque faccia musica, suppongo, perché quando ci lavori sulle tue cose e al momento hai le idee, metti giù, fai, e appunto quando sei anche sulla registrazione. Certo. Poi il disco è finito e almeno per quel che mi riguarda non ne voglio sapere più nemmeno per un anno. Certo. Ecco, dopo lo riascolti, a un certo punto lo riascolti e scopri delle cose. Certo. La cosa interessante per cui io avevo parlato di Out Now è che a un certo punto Fausto Rossi scopre, diciamo, quanto è bello autoprodursi, quindi staccarsi da quello che era in qualche modo il mondo discografico delle major e in qualche maniera finalmente dare spazio a, alle proprie sensazioni. Questo funziona ancora al giorno d'oggi, Fausto? Beh, intanto questi tre dischi in realtà poi non sono autoprodotti, ma sono un lavoro con questa etichetta di Roma, l'Interbeat. Ora il contratto con l'Interbeat si è finito e per il futuro c'è questo punto di domanda. In effetti io non so se ho voglia di avere a che fare ancora con delle strutture, che siano major o che siano etichette indipendenti. Io credo che in qualche modo però ci sia comunque la possibilità per l'artista di diffondere il suo lavoro anche al di là di un'etichetta, al giorno d'oggi, penso, con i mezzi che abbiamo. Ma sai, questa credo che sia più una, ti riferisci naturalmente a internet, ma io credo che sia più un'illusione che non realtà. È vero, qualcosa puoi fare senza dubbio, ma io credo che per avere una certa visibilità, per avere la possibilità che più persone ascoltino il tuo lavoro, quello che classicamente si chiama ufficio stampa. Qua ti posso onestamente dare ragione, in quanto anch'io ho la mia etichetta discografica indipendente, per cui in qualche modo capisco molto bene il punto di vista dell'artista e il punto di vista dell'etichetta, che se riescono a lavorare bene insieme fanno sempre dei lavori molto belli e importanti per entrambi, diciamo. Sì, certo. Però quindi anche tu conoscerai il problema poi quello di avere un ufficio stampa, di avere, esatto, un ufficio promozione, perché comunque ma non tanto perché uno deve arrivare a successo, deve arricchire, no, ma perché la soddisfazione è che comunque le tue cose arrivino più in là possibile. Poi naturalmente devi anche guadagnare, perché è il tuo mestiere, quindi devi guadagnarti del denaro. Esattamente. E tu sai bene, e quindi saprai benissimo quali sono le difficoltà, nonostante tu dica, ed è vero, che con internet oggi si possa lavorare. Una volta sarebbe stato quasi proibitivo. No? Vero. Oggi in effetti puoi muoverti. Però, come ti dicevo, non è che si possa arrivare granché lontano. Noi a volte abbiamo l'impressione, ma in realtà poi... Sì, forse perché internet è talmente dispersivo anche nelle cose, per cui convoglia dovunque e in questo modo praticamente, come dire, non convoglia niente. Sì, è un grande formicaio, sì, vero. Internet, parlando di musica, c'è veramente di tutto e di, sì, più. Poi ogni tanto escono queste cose particolari, strane, per cui un pezzo molto molto semplice, anche magari anche un po' stupido, che si fa magari 10 milioni di download, certo. Ma sono questi casi così che non puoi nemmeno programmare, certo. Altrimenti tu cerchi di fare, di muovere la tua musica, ma ti accorgi che può arrivare solo fino a un certo punto, oppure sì, ci sono situazioni, come dicevo, fortunate, che non si capisce nemmeno il motivo per cui magari una canzone, senza avere nemmeno grandi pretese, e però comincia a viaggiare, certo, viaggiare, finché arriva a milioni e milioni di persone. Benissimo, sì. Io adesso volevo allora introdurre l'ultimo brano di questa nostra intervista, Fausto, che è quello che secondo me è il brano forse più bello del disco. Sono tutti più o meno allo stesso livello, un livello molto alto per tutto l'album. Questo secondo me stacca di pochissimo, se vogliamo, sopra gli altri, ed è il brano, tra l'altro, che apre il disco, che si intitola Tu non lo sai. Sì, poi ne parliamo un attimo. Certo. pensavo all'amore, quello che resta del sogno, tutto è nel buio, poche le stelle nel cielo, e qui mi troverai con gli abiti puliti e il sorriso tagliato a metà. Qui mi troverai nei giorni più precisi e i capelli più sporchi che mai. Vedrai come ti rubano tutto, vedrai, e tu che non lo sai, che vengono in silenzio e ti prendono ogni cosa che hai. Vengono in silenzio e ti rubano tutto quello che hai. Abbiamo appena ascoltato Tu non lo sai dall'album Blank Times di Fausto Rossi. Siamo in compagnia con l'artista che stiamo amabilmente chiacchierando e discorrendo su un po' su vari argomenti anche molto generali, e in questo particolare appuntamento speciale di Blue Time Live. Abbiamo appena sentito, appunto, dicevo, Tu non lo sai. Cosa volevi dirci di questa canzone, Fausto? Sì, no, in realtà ho colto l'occasione, ma in particolare volevo parlare in generale dell'album. Sì. Prima abbiamo ascoltato, appunto, Il vostro mondo, precedentemente. Esatto. Dico. Ecco, a differenza di L'Erba e Exit, che per me sono stati due buoni dischi ai quali sono molto molto legato, però con Exit, ci sono stati da Exit a Become Invisible, ci sono stati tanti anni di silenzio. È vero. Un po' perché ho voluto occuparmi di altre cose, anche se ho continuato a fare musica, ma a un certo punto, anche quando ho cominciato a pensare all'idea di riprendere e mettere insieme un album, un nuovo disco, Exit era diventato una cosa molto molto pesante per me. Non capivo dove avrei potuto andare, come avrei potuto andare oltre dopo Exit. E da lì appunto questa decisione di essere il più scarno possibile, e anche su un piano dei testi essere meno aggressivo. Ecco, un po' più malinconico forse ti ho trovato in questi ultimi lavori. Sì, esatto, più intimista, più rivolto verso il mio interno più che all'esterno. Sì, gli stati d'animo, più che le emozioni. E siccome in pratica questo lavoro presenta di fatto solo un paio di pezzi, diciamo, che poi anche tu non lo sai, non lo è esattamente, diciamo, mentre ecco il vostro mondo è sì più aggressivo verso il sistema, verso il potere, certo. però in questo disco si trovano due, forse tre episodi veramente dedicati, rivolti a quello. In realtà è per tutto il resto del disco è più un invito a curarsi dei sogni, a perdersi nei sogni, certo. Lavorare sui propri sogni, che forse è anche l'unica maniera per liberarsi di questi tempi svuotati. Cioè riempirli capire quanto l'uomo abbia, quanto l'essere umano sia stato un fallimento, perché di fatto se siamo in tempi come questi è perché abbiamo fallito, e su questo non c'è dubbio. Ah sì, sicuramente. Difficile ora rattoppare questo mondo, non capisco davvero da che parte si possa cominciare. Credo che questa civiltà, la nostra, sia finita, ne succederà un'altra. E per cui abbandonarsi ai sogni e quindi alle immaginazioni di quello che potrebbe essere un nuovo mondo, di quello che sarà comunque un nuovo mondo, non ho idea quando naturalmente, ma sarà necessariamente questo mondo, questa civiltà è finita, definitivamente chiusa. Ecco. Allora, noi ringraziamo per questa bellissima intervista Fausto Rossi, che ci ha presentato questo nuovo lavoro, si intitola Blank Times. Ovviamente possiamo anche ricordare il suo sito internet, che è www.faustorossi.net. E ancora una volta vi consigliamo sicuramente di seguirlo nei reading che stanno avvenendo, nel tour che sta avvenendo in tutta Italia, perché come sempre sa dimostrarsi essere un artista veramente profondo. Grazie ancora Fausto. Sì, grazie a voi. Volevo solo concludere con due parole sul reading. Il titolo è, anche questa volta, anche se il reading è in italiano, anche questa volta è in inglese, perché mi ha permesso ancora una volta di essere più ampio come senso. Il titolo è In the Artist Vein, che tradotto in italiano, diciamo, potrebbe essere Nelle vene dell'artista. È un viaggio molto lungo, di circa un'ora, con un accompagnamento musicale. e credo che il reading sarà anche ed è un work in progress, nel senso che mano a mano si svilupperà, nel giro di qualche mese arriverà a una sua conclusione e diventerà un disco, ecco. Bellissima anche questa anticipazione, di cui ti ringraziamo. Per cui, ecco, volevo dire che il reading nei prossimi anni è una cosa che continuerò a portare avanti con delle cose nuove, naturalmente. Benissimo, allora ti ringraziamo ancora molto, grazie soprattutto dei lavori meravigliosi che comunque ci hai riproposto continuamente, e grazie a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Grazie a voi, grazie davvero. Blu Time.